Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, benvenuti a Smart City. Meglio investire in un cappotto, in un impianto fotovoltaico, in una nuova caldaia oppure in una pompa di calore? Domande che si porranno famiglie e condomini che nel corso del 2017, anche approfittando di un mix di incentivi rinforzato, decideranno di destinare un budget alla riqualificazione energetica della propria abitazione. Domande a cui tenteremo di rispondere con il supporto di dati e scenari messi a punto da RSE, Ricerca Sistema Energetico, a partire da questa sera e per tutta la settimana, mettendo quindi a confronto le principali soluzioni tecnologiche per l'energia nel mondo residenziale sulla base di elementi quali costi, risparmi e tempo di rientro dell'investimento, calcolati per vari climi, classi energetiche e tipologie di edifici. La prima tecnologia che abbiamo deciso di analizzare è quella delle pompe di calore, che può essere alternativa o complementare alla tradizionale caldaia. Come abbiamo già ricordato altre volte, le pompe di calore sono delle macchine capaci di assorbire energia termica da un ambiente freddo, come per esempio l'atmosfera, il terreno, l'acqua di una falda, e di usare questo calore per riscaldare un ambiente più caldo. A seconda dei casi, una pompa di calore può utilizzare, capite che è un range molto ampio, dal 10 al 50% di energia in meno per riscaldare un'abitazione rispetto alla solita caldaia. Ma veniamo, come promesso, agli aspetti economici con l'aiuto di Lorenzo Croci, ricercatore responsabile della Laboratorio Efficienza Energetica di RSE, Ricerca Sistema Energetico. Buonasera Croci. Buonasera. Allora, senta, i dati completi saranno poi disponibili sul sito di Radio 24. Noi qui in trasmissione vogliamo concentrarci sui casi più significativi. Sono un paio. Quali per cominciare? Sì, prendiamo due casi più significativi. Una villetta di 100 metri quadri costruita negli anni 80, quindi poco isolata termicamente, sarà quindi una classe energetica F, ubicata nella zona nord Italia, diciamo zona di Milano, che utilizza una vecchia caldaia a gas. Nel secondo caso possiamo prendere in considerazione un condominio piccolo, medio piccolo, di 9 appartamenti. Qui stiamo parlando di circa 720 metri quadri, ubicato anche che esso sempre a Milano, sempre riscaldato con una caldaia a gas, no? Sempre una caldaia degli anni 80-90. Ecco Croci, allora veniamo ai conti. Quali sono i costi, quali sono i risparmi previsti in queste due diverse situazioni? Sì, allora per la casetta, la villetta di 100 metri quadri a Milano, con una caldaia a gas si andrebbero a spendere circa 2.600-2.700 euro all'anno. Ipotizzando l'installazione di una pompa di calore del tipo aria-acqua, che è quella idonea per sostituire una caldaia di questo genere, di circa 10 kW termici di potenza, sì. Potenza, si potrebbero risparmiare circa 1.100 euro all'anno di riscaldamento, a fronte di un investimento di circa 7.000 euro. Ok, benissimo. Ecco, e quindi a questo punto i tempi di rientro, considerando che ci sono anche gli incentivi, quali sarebbero? Sì, considerando sia gli incentivi che sono a disposizione oggi, sia utilizzando la tariffa elettrica dedicata alle pompe di calore, la tariffa D1, si ha un tempo di ritorno dell'investimento nell'ordine di circa 3 anni. 3 anni, che è un buon tempo di ritorno dell'investimento. Prendiamo il secondo caso invece, che è quello del condominio. Il condominio, sempre nella zona del nord Italia, andrà a consumare con una caldaia a gas anni 80-90 circa 14.400 euro all'anno. In questo caso, applicando sempre una pompa di calore aria-acqua, in questo caso stiamo parlando di circa 60 kW termici di potenza, si potrebbe risparmiare qualcosa come 5.500 euro l'anno. Quindi tempi di ritorno, sempre facendo ricorso agli incentivi e alla tariffa agevolata per le pompe di calore, scendono tra 2 e 3 anni. Quindi ancora più bassi. Allora Croci, abbiamo visto questi numeri che sono molto interessanti, perlomeno nelle casistiche che abbiamo descritto. Allora le chiedo quali sono invece le condizioni che possono limitare l'applicazione delle pompe di calore o che possono spostare in modo significativo i numeri che abbiamo dato. Uno sicuramente è la distribuzione del calore. Le pompe di calore sono tanto più efficienti quando la temperatura di mandata è bassa. Questo è una limitazione quando si vogliono utilizzare i classici termosifoni. Quindi funzionano bene con i riscaldamenti radianti, quelli a pavimento per capirsi, ma con i termosifoni le pompe di calore sono meno efficienti, sì, giusto? Certo, sì. qui ci sono almeno tre possibili soluzioni alternative. Uno è utilizzare pompe di calore ad alta temperatura che utilizzano un doppio stadio e permettono di arrivare facilmente a 70-80 gradi di temperatura. Questo però a scapito dell'efficienza energetica, quindi avremo tempi di ritorno un po' più elevati rispetto a quelli che abbiamo visto prima. Un secondo caso possono essere le pompe di calore ad assorbimento a gas, che se usano acqua ad alta temperatura e sono ideali proprio per il retrofit di impianti tradizionali, soprattutto per edifici medio-grandi. C'era una terza opzione? La terza opzione, certo, si parliamo di quando accoppiamo a varie tecnologie, penso ad esempio alle pompe di calore ibride che sono accoppiate a una caldaia a condensazione. E di questo parleremo domani sera, chiudendo il capitolo dedicato alle pompe di calore, vedendo proprio quelle situazioni in cui questa tecnologia viene combinata con altre tecnologie per fare gioco di squadra. Grazie Croci per intanto. Grazie, buonasera a tutti. Ci fermiamo qui, allora appuntamento a domani.